Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Recentemente è stato presentato alla Commissione europea il rapporto Energy Efficiency, the first fuel for new economy, how to drive new finance for energy efficiency investment. Insomma, una ricerca sul finanziamento a lungo termine dell'efficienza energetica nei settori abitativi e industriali. Il rapporto è stato commissionato dalla Commissione Energy Efficiency Financial Institution Group e ha affrontato il tema del mancato supporto di fatto del mondo finanziario, in particolare delle cosiddette commercial bank, a questo settore dell'economia, l'efficienza energetica, che non solo è promettente ma anche strategico per l'Europa, che insomma ricchissima tra l'altro di fonti energetiche non è. Ne parliamo con Marcello Capra della Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico. Buonasera Capra. Buonasera. Allora, espertissimo di set plan, di Europa 2020, insomma di cose europee. Quali sono intanto le criticità che sono emerse, cioè perché secondo questo rapporto le banche non finanziano, se non in rari casi, operazioni di riqualificazione energetica? Ma, diciamo che in generale c'è un problema sull'efficienza energetica. In un momento congiunturale così sfavorevole dell'economia è chiaro che il quadro non favorisce la sensibilità verso questo tipo di investimenti in efficienza, quindi il rischio è che si vada verso una cultura più del risparmio che dell'efficienza. Questo perché è chiaro, gli investimenti in efficienza sono capital intensive, c'è un investimento iniziale oneroso, c'è spesso una sostituzione di un prodotto, di un processo tecnologico, ci sono dei tempi di ritorno dell'investimento non immediati, salvo rari casi, e poi dei benefici, diciamo, di sostenibilità economici e forse percepibili nel medio-lungo periodo. Ecco, tutti questi fattori spesso scoraggiano, diciamo, gli istituti di finanziamento, e questo può essere un freno, una pericolosa deriva. Forse c'è anche un altro tema, che è proprio il fatto che le banche al loro interno non hanno tutte queste competenze tecniche anche per capire a volte, no, le operazioni di efficienza energetica, se effettivamente sono in grado di mantenere tecnicamente le promesse, anche se su questo credo che si stia mettendo abbastanza rimedio, molte banche si sono attivate. Ecco, quali sono le soluzioni che il rapporto alla fine ha identificato? Diciamo che il rapporto va proprio sul cuore del problema, che è proprio l'individuazione di un corretto periodo di payback, di ritorno dell'investimento. È chiaro che parlare di efficienza vuol dire individuare tutta una serie, uno spettro molto ampio di investimenti, di tipologie, però ecco, il rapporto cerca di colmare un vuoto, quindi di definire una serie di criteri, quindi di raggruppare gli investimenti in una serie di cluster, sì, di gruppi di investimenti, per cui sia più facile da parte degli istituti finanziari individuare dei business model che gli consentano di individuare con un ragionevole rischio i tempi di ritorno. Diciamo che è proprio questo aspetto del rischio che si è cercato di approcciare in un modo è più flessibile del solito, ecco, per rimuovere proprio queste barriere, spesso anche psicologiche, da parte delle istituzioni finanziarie. E quindi quali azioni possiamo a questo punto aspettarci dall'Europa? Diciamo, la prima risposta concreta è quella dell'impegno dei fondi strutturali. Come si sa, adesso inizia una nuova programmazione, sì, 2014-2020, e sull'energia e la sostenibilità avremo poco meno di 40 miliardi fino al 2020, in buona parte da destinare anche a interventi sull'efficienza energetica. Dunque, Capra, una delle soluzioni su cui si fa molto affidamento è che delle società specializzate in gestione dell'energia, le ESCO, qui ne parliamo spesso, effettuino appunto questi interventi di efficientamento prendendo, per esempio, a prestito il denaro dal circuito finanziario, senza quindi chiedere a chi beneficia dell'intervento di investire direttamente, ma tenendosi in pratica per un certo numero di anni una quota o tutto il risparmio energetico conseguito. Ecco, in questo modo però queste operazioni di efficienza energetica devono ripagare tre soggetti. Non è pretendere troppo, non è che il motivo per cui molto spesso queste operazioni non partono è che non c'è trippa per tutti questi commensali? Diciamo che le ESCO, che hanno un ruolo senz'altro virtuoso, affrontano uno spettro di investimenti molto ampio, sui quali i criteri di remunerazione degli investimenti, i tempi di ritorno sono molto diversificati. Diversificati. Poi non dimentichiamoci che le ESCO detengono la maggior parte dei titoli di efficienza energetica, che in Italia, come il pubblico sa, sono uno degli strumenti principali di promozione dell'efficienza. Quindi hanno senz'altro un ruolo virtuoso, certo, però noi le dobbiamo anche aiutare a focalizzarsi, a rendere più flessibili gli interventi, individuando dei criteri e dando anche trasparenza ai business model, che sono magari facili da individuare per i settori industriali, ma non un po' più non difficili solo per quello abitativo. Ecco, esatto. ma alla fine, concretamente, questo che cosa può significare? Cioè, da tempo stiamo attendendo un fondo, no, per ridurre il costo del denaro per operazioni di questo genere, un fondo sull'efficientamento energetico, che è stato istituito, ma manca il solito decreto attuativo. Ci sa dire qualcosa? Stiamo lavorandoci e a breve il fondo vedrà la luce, è un fondo molto importante di quasi 500 milioni fino al 2020, è un fondo molto flessibile che potrà dare garanzie ma anche finanziamenti diretti, è una risposta molto concreta che riteniamo potrà affiancare ovviamente le altre politiche, gli incentivi già in essere, i certificati bianchi, gli eco bonus per gli interventi di ristrutturazione, il conto termico, che è un nuovo strumento, insomma. Gli incentivi non mancano, lei dice, tutto sommato. Ecco, ma questo fondo, voi è in grado di dirmi una data entro cui possiamo dare per scontato, insomma, che ci sarà? No, non mi posso esporre, anche perché è un decreto complesso, per cui vogliamo essere certi che poi funzioni, sia certo, gestito al meglio. Ecco. Grazie Marcello Capra. Grazie, buonasera. Allora, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento, come sempre, a domani alla stessa ora.